Dort un grigio sa irte ai trenisi. Esso è un treni humbi mi fes, mu amulia tu che di me. Me pesun vet, me faccio le, da me custe pas, me ye. Yeah.